approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Tempi di transito ridotti e il raddoppio del traffico di navi, con una porta aperta finalmente alle megaship e con nuove prospettive di competitività a livello internazionale. L'allargamento del canale di Suez è l'opera faraonica presentata al mondo lo scorso 6 agosto e con cui l'Egitto del generale Abdel Fattah al-Sisi si pone come paese strategico nella logistica mondiale. La sua inaugurazione, cui hanno partecipato le principali cancellerie straniere, Italia, Francia, Grecia, Russia, Emirati Arabi, Stati Uniti, lascia pochi spazi ai dubbi sugli intenti. Il presidente al-Sisi ha percorso in divisa militare le acque del canale e una pattuglia aerea ha immortalato l'evento. Parata navale e aerea. In effetti di colossale c'è innanzitutto un fattore, e cioè la durata della costruzione dell'allargamento, annunciato ad agosto 2014 e concluso solo un anno dopo. Una velocità ancor più significativa in un paese con evidenti problemi economici e di sicurezza, sia per le questioni interne mai sopite, sia per le infiltrazioni jihadiste. Ma quali saranno le conseguenze per il Mediterraneo e soprattutto per l'Italia con l'allargamento di questa porta? Benvenuti a questa prima puntata di Container, trasmissione dedicata al mondo dei trasporti e della logistica. La mobilità di un paese, dei suoi cittadini, delle merci rappresenta la chiave del suo sviluppo. Oggi in Italia il settore dei trasporti e della logistica rappresenta oltre il 12% del PIL e attraversa trasversalmente tutti i settori produttivi. Container vuole essere un approfondimento settimanale legato alle tematiche della mobilità, dal trasporto cittadino alla logistica delle merci, alle nuove forme di energia, alla telematica e alla informatica dedicata ai trasporti, ma con un occhio attento ai temi di geoeconomia, ai flussi migratori, alle condizioni di vita nei paesi dove le merci vengono prodotte o distribuite. Ma veniamo all'argomento di oggi, il canale di Suez e le conseguenze per il Mediterraneo e per l'Italia del suo raddoppio inaugurato qualche settimana fa. Prima di presentarvi i nostri ospiti, ascoltiamo una scheda preparata da Andrea Ferro. È una strada d'acqua che accorcia le rotte tra Asia, Medio Oriente e Mediterraneo ed elegge il Mare Nostrum crocevia fondamentale per i traffici globali, risparmiando il passaggio altrimenti obbligato dal Capo di Buona Speranza. Fu realizzato nel 1869, ma in realtà le origini sono antichissime. Come racconta Erodoto, i primi scavi risalgono addirittura al 600 a.C. La nuova opera è costata più o meno 9 miliardi di euro, tutti quattrini privati, ed è praticamente una sezione di 72 km parallela a quella già esistente di 193. Si calcola che nel 2023 saranno 97 le imbarcazioni che ogni giorno transiteranno nel canale di Suez, praticamente il doppio delle odierne 49. L'8% del traffico mondiale passa da qui, soprattutto container seguiti dai prodotti petroliferi, flussi che negli ultimi anni hanno fatto registrare una crescita esponenziale tra il 200 e il 215%. Grazie al raddoppio, la nuova zona potrà competere con le principali regioni logistiche mondiali e con quelle nord europee di Rotterdam e Amburgo. Secondo un'analisi realizzata da Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, il centro studi di Intesa San Paolo, con l'apertura del nuovo canale di Suez, il tempo di transito calerà da 18 a 11 ore, consentendo inoltre il transito delle maggiori portacontainer. Si stima che si possa generare un risparmio medio di circa il 4% dei costi operativi totali per ciascun vettore a seconda delle rotte e delle distanze, utilizzando appunto la rotta via Suez. E ne parliamo proprio con il responsabile del centro studi e ricerche per il Mezzogiorno, Massimo De Andreis. Con appunto l'inaugurazione il 6 agosto scorso del raddoppio del canale nel nuovo Suez possono passare navi di qualunque dimensione, ossia non ci sono limiti di tonnellaggio e di dimensione di portacontainers. Mentre invece, per esempio su Panama, che pure è in fase di allargamento e saranno completati i lavori del nuovo Panama presumibilmente ad aprile del 2016, nonostante i lavori di allargamento, nel nuovo Panama potranno transitare delle navi fino a un massimo di 14.500 TEUs di dimensione. Una prospettiva che interessa dunque anche l'Italia, ponte naturale nel bacino mediterraneo, considerando che la nuova porta verso l'Oriente sarà un'importante occasione per le meganavi di velocizzare i rapporti con tutta l'Europa. Ma i porti italiani sono pronti a questa sfida? Lo chiediamo a Pasqualino Monti, presidente di Assoporti. La maggior parte dei nostri porti oggi non sono in grado di dragare i propri fondali per una burocrazia che è davvero pazzesca, che quindi non ci consente di ammodernare le nostre infrastrutture e di rispondere a quell'esigenza del mercato, a quell'opportunità che il mercato oggi ci pone sul piatto, che è il nuovo traffico derivante dal raddoppio del canale di Suez. Devo dire che il governo ha affrontato con grande decisione, soprattutto il ministro Delrio ultimamente, devo dire, ha messo il piede sull'acceleratore per la riforma, e quindi ci auspichiamo che entro la fine dell'anno arrivino quelle condizioni di riforma, di norma migliorative che ci consentano, insomma, di agire immediatamente sui nostri porti e sulle nostre infrastrutture. La nostra sfida oggi è quella di fare un unico sportello dei controlli. Il governo ha varato all'interno della riforma finalmente lo sportello unico dei controlli, che prevede che l'agenzia delle dogane sia il dominus all'interno del porto per i controlli, che ci sia l'autorità portuale di sistema portuale che verifichi, diciamo così, anche in termini di efficienza, che possa misurare l'efficienza dei controlli che vengono in ambito portuale e intervenire laddove necessario. Certo. Quindi tutti quei timbri vengono portati sotto l'autorità. Un'unica autorità. Monti, quindi una volta i nostri competitors, il nostro punto di riferimento era il Nord Europa, erano i porti dell'Olanda per esempio, adesso diventa importante guardare con attenzione anche ai porti del Sud. Ma a me sembra innanzitutto che la fotografia che è stata fatta poc'anzi sia una fotografia, secondo la mia modesta opinione, perfetta. Cioè, noi abbiamo sempre avuto come riferimento i porti del Nord Europa, a parte dei nostri mercati più importanti di consumo, parlo della Pianura Padana, piuttosto parlo del Nord Italia, vengono serviti oggi ancora da porti del Nord Europa. Con l'allargamento del canale Suez i nostri competitors diventano i porti del Nord Africa, e quindi è chiaro che diventa ancora maggiore la sfida che noi dobbiamo cercare in tempi molto rapidi di vincere, che è quella di infrastrutturare i nostri porti. Dobbiamo fare una fotografia strategica del nostro paese, decidere dove investire in pochi porti e cercare di portare a noi quote di mercato e quindi quote di gettito, che rappresentano anche una ricchezza straordinaria per il prodotto interno lordo del nostro paese e per le casse dello Stato. Bene, ringraziamo Massimo De Andreis, direttore del Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, e Pasqualino Monti, presidente di Assoporti. Continuiamo ad occuparci del raddoppio del canale di Suez e delle sue ripercussioni con l'Italia. Lo facciamo in compagnia di Paolo Ge, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Conftrasporto, che proprio nei giorni scorsi aveva lanciato una sorta di grido d'allarme relativamente a questo potenziale incremento dei traffici. L'allarme era legato proprio all'efficienza dei porti italiani. Non a caso lo stesso presidente di Assoporti ha detto che siamo abbastanza indietro rispetto a quello che dovrebbe essere un investimento infrastrutturale. Gli investimenti adesso potrebbero arrivare, però... Ma il problema vero è che destinare 15 miliardi a pioggia rischia di non realizzare quella rete di porti di accoglienza che potrebbero veramente gestire la grande quantità di merce che entrano nel Mediterraneo grazie al raddoppio del canale di Suez. E ancora una volta mi pare che emerga in tutta evidenza come nel nostro paese la politica dei trasporti sia episodica, cioè non appartenga a un disegno complessivo di insieme che individua gli interventi da realizzare in relazione agli obiettivi che li deve stabilire la politica, ci mancherebbe altro, ma gli obiettivi che si vogliono raggiungere per far fare un salto alla competitività del paese e quindi aiutare l'economia nazionale. Mi pare che noi facciamo di tutto ma non sfruttiamo la grande potenzialità che il nostro paese ha, essendo la piattaforma logistica avanzata nel Mediterraneo. Ecco, di questo si parla a più riprese ormai da decenni, se non da secoli. L'Italia come banchina, adesso è ritornata di moda anche questa terminologia, banchina del Mediterraneo, però cosa bisognerebbe fare a questo punto? Come investire questi 15 miliardi? Allora, innanzitutto bisogna scegliere con oculatezza quelli che possono essere i porti che io chiamo di prima accoglienza, che dovrebbero essere adeguati a ricevere le merci, essere collegati nella retroportualità con infrastrutture ferroviarie e stradali, per poter poi, se non addirittura lavorando, aprendo i container e lavorando le merci che lì sono inserite, essere poi trasferite sui grandi mercati europei. Ma per far questo la prima cosa da realizzare è un provvedimento d'urgenza di legge che intervenga per esempio sugli escavi. Cioè, non è possibile, noi abbiamo fatto scappare degli investitori perché quando sono intervenuti in alcuni porti per rendere, come dire, accoglienti i porti per le grandi navi che hanno un pescaggio più elevato di quello che oggi è consentito vista la situazione dei nostri porti, abbiamo avuto mandati di avvisi di garanzia, si è bloccato tutto, ci sono state delle imprese che sono scappate da Taranto e sono andate a investire nel Pireo. Cioè, allora, o veramente comprendiamo la grande potenzialità di questa opportunità, o se no noi continueremo a chiacchierare ma non avremo mai un disegno organico e non creeremo mai occasioni di sviluppo per il nostro paese. Queste tematiche tra l'altro saranno proprio affrontate da voi nell'ambito di un importante incontro che avverrà nelle prossime settimane. Ma Confcommercio ha deciso nei giorni 12 e 13 ottobre di tenere la prima giornata a Villa d'Este, quindi in quell'ambito dove si discutono i grandi temi di politica economica internazionale, e quindi faremo la giornata dei trasporti. Avremo la presenza, oltre che del ministro, di significativi rappresentanti del mondo internazionale che si occupano dei trasporti, dalla Commissione Europea a alcuni esperti che vengono dagli Stati Uniti. Così avremo un quadro e verrà fuori con grande evidenza quello che sono le deficienze del nostro sistema, le interconnessioni che mancano, che non sono solo infrastrutture materiali ma anche infrastrutture informatiche. Bene, ringraziamo Paolo Ugè, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Conftrasporto. Termina qui questa prima puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Saluto e ringrazio tutti gli ospiti di questa puntata. Vi ricordo che Container è realizzata in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, quindi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'appuntamento con Container ritorna sabato prossimo dopo il GR delle 13. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.